il suo splendore. C'è Edera che soffoca queste fragili creature. C'è chi cresce come pianta carnivora e chi non ha mai messo radici. Ma ci sono quei pochi, piccoli e semplici fiori sperduti qua e là, che rimangono